cucano alle 10, c'è qualcuno? Ci cucano alle 10, c'è qualcuno che ascolta? Ci cucano alle 10? Tutti morti siete. Ora, attenzione 10. Ora canale 10, prego. Pronto? Pronto? Chi è va? Gianni dopo Roma, dopo mesi. Allora c'è qualcuno vivo in 27? Sì, io ci sono ogni sera, accendo, non c'è mai nessuno, quindi faccio scaldare gli apparecchi. Perché si accendo con questa voce di Oh, sta andando male? Non lo so, questo è acceso ma era sempre col volume al minimo, vedi un po' come va. La radio non è chiara. Cerco non ti stavo riconoscendo ma. Sì, cacchio, io l'ho lasciato acceso su questo apparato LMS200 per non farlo degradare e sta andando peggio. Aspetta, aspetta quel 3009, dai. Strana la radio, è strana la radio. Ecco qua, 3009. Ma non è che stavi parlando troppo vicino al microfono, Marco, mi è sorto il dubbio. Non lo so già, avevo la monitor, l'altro apparato acceso, però anche a me è sembrata strana, bruttina. Questa è a metà, acceso tutto impolverato qua. Io non sto entrando più, praticamente lascio acceso col volume anche a zero per non farli sciupare, invece a quanto pare il risultato è opposto, a meno che non sia quell'altra cosa lì. Io adesso sono con l'antenna diretta, che non fosse la scarpetta già. Ah, ho capito. Non lo so, non te lo so dire, ma con questo ti sento bene. Eia, 3009, già andava bene, non si batte. Dicevo, voi state entrando, perché non sto facendo né più carrellata né più niente, né ascoltando in HF, nulla già. Questa estate mi sta uccidendo. Sì, sono a te. Anche qua, se attacco il condizionatore, mi prende la gola e agli occhi. La mattina mi sveglio con la cispa degli occhi che non riesco a capire. Non posso attaccare manco il condizionatore, sto attaccando il condizionatore ma è di deumidificazione, di modo che sia più leggero, capito? Eia, e io neanche il condizionatore perché, vabbè, non ne uso, preferisco il raffrescatore, tanto che lo metto abbastanza vicino. E bene o male quelle particelle micronizzate nell'aria arrivano a contatto della pelle, però guarda, più di tutti gli altri anni quest'estate per me è una tortura. E meno male che abbiamo il cappotto, un po' ci sta aiutando perché quei 2 gradi in meno magari ce l'abbiamo in casa, 2-3 gradi in meno, ma quando prima non avevamo nemmeno il cappotto, qua sentivi i muri che danno verso il sole, li toccavi ed erano tiepidi, erano caldi. Perché se magari sono intracchite assorbono il caldo, capito? Quelli di mamma erano intracchite, che assorbivano il caldo e non si poteva passare, poi era sotto il tetto, mamma, era l'ultimo piano. Immaginati il caldo che prendevamo. Dovevamo scendere giù la sera alle panchine perché al Sacro Cuore c'è il giardino, no? Sono i giardinisti, quindi scendevano tutti lì alle panchine e stavamo sirattati. Ehi, sottotetto non ne parliamo, mamma mia. Vabbè, io penso che mi ero anche un po' assopito sul tardi, mi ha svegliato mamma per una cosa, non capivo se era giorno o se era notte, tutto suonato dal caldo eccetera. Adesso mi sto facendo un po' di ripulisti, dolce, un po' di barba mi devo fare perché mi si sta allungando la barba e forse anche spuntare i capelli, appena, non molto. E al mare sono andato una volta, vabbè ci stava da Dio, però è impegnativo già, impegnativo perché io mi porto anche un po' di roba, cioè non è che mi porto l'asciugamano e la bottiglietta d'acqua, io voglio stare comodo e all'ombra, quindi mi ero ricomprato il lettino da mare, più leggero dell'altro, meno robusto ma più leggero, quindi lettino, sedia, zaino e ombrellone. Ma io sono andato lo stesso una volta, mi sono portato l'ombrellone e la borsa termica, e ci ho messo anche l'asciugamano nella borsa termica, ho messo l'acqua fresca, però ci ho messo anche l'asciugamano, in modo che non mi dovessi portare mille cose. E niente, basta. E ho trovato un posto dove si stava da Dio, però sono stato 3 ore cercando parcheggio alle 9 di mattina, non riuscivo a trovare un parcheggio, era tutto pieno. Sì, ma tu sei andato dove? Zona Alghero, vabbè, dopo me lo dici. Io l'altra volta sono andato alla rotonda, a parte che la rotonda è chiusa per lavori, cioè tu vedevi la gente a mare e i lavoratori poveretti sotto il sole lì a lavorare. Allora, alle 9, poco prima delle 9, il vialone prima della rotonda era già pieno. O meglio, c'era un posto, però l'avevo superato e non potevo tornare nemmeno in retromarcia indietro perché se lo stavano già prendendo. Allora sono andato a quel parcheggio, come svolti a sinistra, no? C'è quel lido, c'è quel parcheggio con la sbarra, tu basta che entri, paghi, ti danno il biglietto, tipo Via dei Mille, no? Ci stai le ore che devi stare, poi ti ritiri il biglietto in base alle ore che rimani paghi il tanto. Però è bello che superi la duna e sei già in spiaggia, capito? Non devi farti giri lunghi. Tu dove sei andato invece? No, io sono andato al primo pettine, dove ci sono tutti i parcheggi ed erano tutti occupati. Alla fine, l'ultimo parcheggio, stavo uscendo una macchina e ho avuto una fortuna sfacciata a prenderlo, però ho dovuto fare un bel di strada a piedi, con l'ombrellone, la borsa, tutto quanto, e quando arrivi sei già stressato. A seconda di quanto devi camminare, sì. Quando il trucco comunque sia andare presto, la mattina presto, cioè essere già lì alle 8:30, perché già alle 9 è già tutto pieno. Bagnarsi la testa se necessario, vabbè, di mattina non è necessario, però rientro quando torni alla macchina. Io faccio sempre così, mi bagno la testa in modo da non arrivare già fuso dal caldo. Evitare colpi di calore, già mi succo. E poi ero sempre in acqua praticamente, era o all'ombra o sempre in acqua. Con una piscina. Ti metto il ghiaccio per quello io. Aspetta che c'è un break, adesso lo mandiamo avanti. No, mamma purtroppo non la posso portare perché a Platamona momentaneamente avevano tolto quelle passerelle in legno, è presente, quelle specie di blocchi in legno per fare il vialetto, per portare tipo carrozzine, deambulatori. Al momento non c'è, o meglio, quando ero andato io non c'era, hanno tolto tutto, bisogna aspettare che ripristinino quella roba lì, almeno per riuscire a portare un deambulatore a destinazione. Avanti il break, chi è? Adesso ti metto il ghiaccio io, non c'è problema per quello. Ciao Antone, ti sento con una voce bassa, bassa e fine, sembri in FM quasi. Adesso mi rilasso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E bassa Antone, come se avessi il mic gain quasi chiuso. Dai un'occhiata un pochino. E quindi già, poi certe volte guarda, me ne scendono le lacrime quando vedo tutte le canne da pesca ferme, la muta, è nella stessa posizione da 15 anni, forse anche 20, sarà ormai sarà diventata di cartone, di pane carasau sarà diventata. Un po' di roba avevo, ho tutto, maschere, pinne, di maschere, a parte quella più morbida in silicone, mi è rimasta ancora la famosa Pinocchio. Sì, anche io ce l'avevo, della Crisi, ce l'avevo anche quella. E anche io ho le canne ferme, dovrei andare a farmi il permesso, a rinnovarlo, non a farlo perché l'ho già fatto, e niente. Decidermi andare qualche sera al fresco lì, dopo le otto lì che non c'è nessuno, sai, da dire. Sì, comunque, già, quella della Crisi, esatto, è un po' rigida, però a me dà un po' fastidio sotto il naso, siccome è gomma, non è silicone, è quello morbidissimo. Devo stringere poco perché sennò proprio mi fa male sotto il naso, però funziona sempre, c'è quel famoso ferrettino che passa tra i due occhi, insomma. Poi la mia è particolare, la mia è personalizzata, la mia è il modello finocchio, è rosa e c'ha lo snorkel color arcobaleno. No, ci credo, no, la mia è la vera. Ah, sto scherzando già. Ma ci mancherebbe. Oh, di questi tempi magari fanno il modello quella roba lì, no? LGBTQ più meno. Ma vabbè, devo alzarti la subacca, mi è rimasto solo il pugnale. Che ho il pugnale della Crissi e basta, che lo usavo quando andavo a pesca, lo usavo per aprire le cozze, quando innescavo le cozze. Poi basta, non mi è rimasto altro perché ho tutto venduto, sia la pila, sia tutta l'attrezzatura, muta e quanto c'è. Tutto quanto venduto. Dato la neusi, qui si rovina in effetti. Le canne mi fa male a vederle così, ferme, c'è tutta l'attrezzatura, io addirittura ho i filaccioni con gli ami tutti pronti, avvolti nei sugheri, eccetera, pronto perché se magari prendi qualche amo c'è la studio di ricambio, c'è la girella, non fai altro che attaccare uno scrittore. Sì, vedi roba. Ah, a proposito di pugnali sub, coltelli sub, ne ho una marea già, una marea e tutti nuovi, tutti schifosamente nuovi, certi non sono mai stati usati. Anch'io, vedi, mi piacerebbe usarli per togliere roba da scoglio, per aprire patelle, cozze, che ne so, però vorrei sciuparli, perché siccome come li usi si graffiano subito, no? Soprattutto in zona di scogli. Un peccato però, perché sono soldi fermi. Vediamo se Antonello ha risolto. Ehi, adesso sì. Stavo dicendo, per quello basta andare a Sinoi, ce ne sono 6 ricoverati, 2 sono in animazione. Con quei coltelli, non sai quanti soldi facciamo? Di sabato vicino alla discoteca. Ma lì vogliono... Aspetta, cosa è successo qua? Ah, ho messo il call. Stazionarie, non viene? Ok. Purtroppo lì sai cos'è? Vogliono le patatesi, lì ti devi aprire la bancarella di patatesi, allora vendi. Cotelli da sub un po' meno. Hai visto il fattaccio? E la gente non si sa divertire. A meno che il tipo... Noi non sappiamo come è andata, metti che li abbiano cagato, scusando il tene, che l'abbiano aggredito, che ne so, e questo magari impaurito si è difeso, ha tolto il coltello e ha fatto danno, boh, non si sa. Vai Gianni. Ma io avevo detto San Giovanni, no? Non capivo, ma è San Giovanni di Senori. Sì, a Senori, c'era una festa di un qualche santo, qualcosa, e c'era stato un accoltellamento, 6 persone ferite, uno più grave, l'accoltellatore arrestato. Il coltello era strano, sembrava davvero un coltello mezzo sub, mezzo di quelli mora. Mi pare che avesse il tagliasagole, e forse da sub, però era colorato, era di colore un po' più vivo il manico. E vabbè, ma comunque non si sanno divertire, non si sanno, prima se proprio ti aggiungi ti dava una scassottata e tutto finiva lì, adesso stanno usando i coltelli ragazzi, capito? Non mi basta più scassottare e usare i coltelli. Magari usa il coltello che non sa dare e incassare cazzotti, allora ricorre al coltello, male. Comunque, peggio per loro. La Valencia mi... Però quando serve veramente questa Valencia non salva, non salta mai fuori già, capito? È quello che è scoppiata la bombola, hai visto? È scoppiata la bombola, via Principessa Maria. Sì, bel casino. Bel casino, ho visto i pezzi, proprio i pezzi di palazzo sulle macchine sotto, immagina, passava gente e poteva ammazzare anche più persone. Una cosa che non ho capito è a che ora è successo, perché quando scoppia una bomba il botto è notevole, cioè può succedere anche dall'altra parte di Sassari, qua l'abbiamo sempre sentito. Invece non abbiamo sentito proprio niente. Quando è successo? Di mattina, di notte, pomeriggio, boh. A mezzogiorno di mattina è successo. Ma per poco non ci rimpiangono i pompieri perché ne avevano avvisati che c'era una fuga di gas, loro sono andati ed è esplosa mentre c'erano loro. Ma il tizio era addormentato o svenuto dal gas, non si sa. Mi pare che sia anche una persona conosciuta, faceva anche spettacoli. Aspetta il nome, com'è? Non mi viene. Sì, l'ho sentito anche io e non mi è nuovo come nome. Non mi è nuovo. E chi lo sa cosa sia successo. A contrario, si può dire che era successa la stessa cosa, però questo qua aveva bisticciato con la guida, l'aveva picchiata a sangue, è andata all'ambulanza a prenderla, qui sono arrivati i carabinieri, stavano salendo su, ha detto se venite qua faccio saltare tutto. Il carabinieri stava salendo, ha preso, ha aperto la bombola e ha fatto saltare tutto qua, il tetto del palazzo, e il carabinieri dalla deflagrazione l'ha sbattuto al muro. Aspetta, ma tu stai alludendo tipo via Londra, da quelle parti, tanti anni fa, che praticamente è scomparso, sono scomparsi i muri del piano terra. No, a Porto Torre si è successo questo, avevano bisticciato, il tipo aveva picchiato, non bisticciato, aveva picchiato la donna, e sono andati con l'ambulanza a prendere, dice che era tutta sangue, tutta piena di sangue in faccia, ecco. E sono saliti i carabinieri, si stavano salendo, e ho detto se salite faccio saltare tutto, si sono fermati, a Migliano Ulisse ha acceso la bombola, lui ha fatto saltare tutto il tetto del palazzo, adesso cosa c'entrava qui del palazzo, e l'hanno dovuto evacuare tutto. Roba brutta. Sì, perché per esempio già la cucina può avere tutti i sistemi di sicurezza che vuoi, no? Manca la fiamma, si spegne il fornello come qua, però se uno di notte non chiude la bombola, tra la bombola e la cucina c'è sempre il tubo in pressione, quindi metti che sia un po' vetusto, che ci sia una crepa, questa crepa deve magari un giorno non regge più la pressione, si spacca del tutto, in poche secondi garantito che la casa si satura di gas. Se qualche vicino magari viene a avvertirti, ti va a bussare alla porta, anziché bussare alla porta a mano, magari bussa al campanello, come il campanello fa la scintilla, boh, salta tutto. E basta che accende una luce dentro casa, eccetera, perché il gas sta a mezz'aria. Tu lo sai, adesso ti viene da ridere. Una volta noi siamo andati da uno che si stava suicidando, e siccome il carabinieri non arrivavano più, abbiamo sondato la porta e siamo entrati noi. E con la scopa abbiamo buttato fuori tutto il gas, perché il gas sta a mezz'aria. Abbiamo preso lui, abbiamo tutto fuori, ci siamo messi le maschere in faccia e a mezz'aria abbiamo buttato tutto, abbiamo preso tutte le finestre e buttato fuori tutto il gas. La faccia, ma se c'è della luce esplodeva tutto. È un rischio quello lì. Adesso non mi ricordo appunto il gas, ma cos'è più pesante il gas? Quello di città, quello in bombola. Non mi ricordo già. Se era più pesante dell'aria tendeva a stare quindi in basso, no? Cioè a saturare da metà verso il basso. Sì, si rimane a mezz'aria, non va su, rimane a metà. E con la scopa lo mandavamo fuori, capito? Come se stessi scopando, la stessa cosa. Mandando via il gas con i secchi. E lì più che sì che areggiare, fare vento in modo da disperderlo più in fretta possibile, anche con coperte, sbattacchiarle in modo da... E l'onfio il gas, l'onfio, per carità. Antonello, riprendi tu che vado a bere un attimino, e poi vi devo lasciare che mi devo fare assolutamente la barba, perché sembro un naufrago, e col caldo non è bello. La barba non si fa di sera, si fa di mattina presto. Guarda, se ti vuoi, fatti la barba, non c'è problema. C'è l'accendino, usi quello che hai fatto. Antone, io c'ho quel cannello per fare la crema bruciata, la creme brûlée, lo uso tipo un chapeau, come? Appunto, sì, proprio quello. Ma guarda, raga, io vi lascio che non mi racconto che la così tardi, devo portare giù il cane, dai. Ciao Antonello, ciao Marco, ci sentiamo. E io, ciao Gianni, ci sentiamo alla prossima, stammi bene. Buon divertimento con tutto, alla prossima. Ciao, ciao Gianni, ho fatto in tempo a rispondere, dai. Sentiamo in migliori e più fresche condizioni, speriamo. Va bene, dai, raga, statemi bene, ciao ciao. Via, ciao, alla prossima, stai bene. E tu Antone, come va? Era meglio poi da quella caduta? Sì, sì, sì, il naso si è messo a posto e anche tutto il resto. Freddo meno. Adesso sono andato dall'ortopedico ieri e mi sto facendo tutti gli esami nuovi e vediamo un pochettino cosa fare per questi due dolori. Hai visto quello che c'è anche tuo madre, che si incastrano le dita, eccetera, eccetera, capito? E quindi vuole, c'è 50 euro, devo fare 15 esami, devo fare. Una volta fatti quello qui, 15 esami, lui mi fa la relazione e poi gli do 50 euro e la mando di là. Arrivo, aspetta Antone che 1, 2, 3, prova. Ho ricambiato apparato perché stavo scendendo un po' malino, forse perché stavo parlando tutto attaccato così a me. Vediamo un po', dimmi com'è la modulazione, 1, 2, 3, mi sto ascoltando come monitor, però appunto non è chiarissima. Questo ho lasciato sempre acceso, tutti questi giorni che non sono entrato, settimane, l'ho lasciato acceso e col volume a zero però, col volume a zero. Se non sta sempre tra propagazione e tutto attivandosi, capito? Come va? 1, 2, 3? Aspetta che abbassi il monitor, 1, 2, 3? Ah no, esce bene, esce bene. L'unica cosa che devi azzeccare è un bel microfono normale, secondo me. Perché il microfono amplificato non so se lavora bene, la verità, di uno magari e esce anche bene, niente di strano, hai capito? Però l'apparecchio è perfetto. Sì, mi ascolto al monitor, vediamo. Sì. Adesso vedi, vabbè, questo è perché. Porca la miseria, devo dargli una pulita col CRC, ecco, adesso lo provo a potenza media e già si mangia un po' di radio, ora, un po' di radio se la mangia, vabbè, percitava anche bene ancora. E tu caldo ne hai lassù, mamma mia, sotto tetto Antone, com'è? Sto corto. La notte dormo qui e mi alzo asciutto, cioè dormo asciutto e mi alzo bagnato, cazzo, come se fossi un bambino che fa cosa, quindi mi alzo alle 5 e mezzo alle 6, devo lavare, con lo straccio, cosa del genere, perché uso quello, con sapone. Tanto è inutile farmi la doccia come si deve, quindi non ne vale manco la pena, dopo 5 minuti si è peggio di prima. Alle 8 e ricomincia il sole e quindi si è peggio di prima. E non c'è il condizionatore che tenga, no? Mamma di tutti, va bene. E dopo controllo anche il linearetto perché la fermo da un po'. Tutti i baracchini fermi, c'è il successo, qua bisogna iniziare a svendere. Immaginate che se ora c'è la blocco polmonite, non l'ho presa mica qua, no, l'ho presa all'ospedale. Quindi a un certo punto, poi c'è un enfisema polmonare, cosa del genere, non posso agganciarmi un condizionatore d'aria, ce l'ho ammazzo del tutto. Siccome io non ne ho 3.000, cioè 10.000 euro a pagare di casa da morto, quindi funerale e tutto. Non aggiungo nessuna gara, questo. Oh, per carità, manco a pensarci. sì, in ospedale certe volte vai a curarti, ti becchi le cose peggiori, boh. Eppure dovrebbero essere belli sterili, belli, boh. Dovrebbe essere l'opposto di come sono ora. Va bene. Antonio, io stacco, là, ero entrato a salutare, che ho sentito Gianni chiamare. E poi basta, da solite cose, però non è, ne ho le balle piene dell'estate. Quest'anno poi non ne parliamo. Tu, e sono io. Io, quando vado a fare la spesa, è un casino, perché quando faccio la... Via Carlo Felice, con due borse piene, rischio di farmi venire un infarto, il discorso è quello, hai capito? Riesco a respirare, ho problemi di respirazione, anche perché mi è sbattuto il naso, già lo sai, quindi a un certo punto, adesso vediamo un po'. Appena vado a fare questa documentazione lunedì di al CUP, chiedo se mi mettono a posto il naso eccetera eccetera, perché non respiro bene, capito? Poi si sente, lo senti? Come se avessi liquido. Ehi, va bien, cioè va bien, va mal. Ok, Antonio, io stacco, faccio quello che devo fare qua, dai. E poi ci sentiamo, dai, quando capita. Sì, vabbè, ci vediamo al limite lunedì. Tanto lunedì tu vai lì al solito posto, quindi mi faccio una passeggiata a piedi e così mi faccio un po' di spesa e ci vediamo. Guarda, nel caso ti avverto, se vado ti avverto, ti fai la spesa anche tu e ti portiamo a casa bello col clima, arrivi fresco e riposato. Ok, ci sentiamo Antonio, ciao. E poi ti smonto la cosa, abbia 26 pelle, cazzo. E qua si potrebbe anche smontare tutto, me, tanto è tutto fermo. Tante radio ferme, tanti soldi sprecati così. Però vedi, in tanti mesi, quant'è? Tante settimane o mesi che sono, ho lasciato sempre l'LMS 200 attaccato. Devo vedere solo che non abbia problemi linearetto, di controllare i stazionari, le solite cose. A parte che con questo caldo, ecco, tutti gli anni che ha fatto, il cavo al sole deve essere cotto. Immaginati l'RG 213, la guaina, con questo cavo cotto, se lo trovi con le bolle, mico, le bolle. Guarda, cavo te ne accorgi subito, se è cotto è di colore rosso, quindi a un certo punto non costa niente tagliarne un pezzettino e poi, siccome c'è il saldatore che mi ha regalato Marco, che è a batteria, quindi non c'è nessun problema, capito? Ti porto il saldatore sopra e ti saldo il polo caldo, non c'è problema, quindi non mi hai portato il cavo sopra, casinato e tutto, me l'ha regalato Marco, me l'ha regalato il senatore, quello là, quello della Lidl. Guarda, io ho avuto la prima versione, era un saldatore naturalmente per saldature piccole, cioè non, magari PL no, e andava con una o due pile da un volt e mezzo. Quello hanno fatto con la batteria ricaricabile e quello ha più potenza. Ma poi mi ricordo che da qualche parte avevo quel famoso saldatore a gas, stretto e lungo, no? Sembrava una piletta, una cosa. Mettevi il gas e in punta avevi un sacco di punte da poter innestare in base al tipo di saldatura che dovevi fare. E a quanto ne so io funzionava, il problema è ricordarsi dove l'ho messo, in quale armadio, in quale cassetto l'ho messo. Avevo tutti gli accessori. E quello ha una certa potenza perché a gas ti fa la punta abbastanza rovente, riesci a saldare PL, è roba un po' più grande, ecco. Va bene, Antonelli, di nuovo, io Rino vi saluto e sentiamo in più fresche e migliori condizioni, ok? Ci stiamo alle prossime, no? Stanno bene al limite, lascio io domani mattina, devo andare al CAF, devo andare per fare la domanda, quindi dell'Ari, comunque ti compreso, fatelo anche tu, hai capito? Almeno ti cassi un po' di soldi, se lo stanno facendo tutti, se lo stanno facendo. Fate la domanda dell'Ari, Marco, è meglio. Quello che tirano, tirano, ma fa il culo, ma almeno sei tranquillo, hai capito? Va bene, ciao Antonio, quale ti esecutivo, ciao ciao. Ciao ciao ciao, alle prossime, ciao ciao ciao.